pensato ancora a quella volta che con la mano si è stato dentro il ventre di quella ragazza che in foto ti guarda da lì. Un po' più sono per ragno che sembra un po' tuo padre quando sei vestito di grigio. Si può nascondere con i baci e che un corpo è come l'oceano, un sasso. Marco, in questo santissimo giorno ti sei messo la cravatta, sei sceso in cantina e aperto il glass. Marco, in questo santissimo ti sei messo la cara.